Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoj. Anna trascorse tutta la giornata a casa, cioè dagli Oblonsky, e non ricevette nessuno, dato che alcuni conoscenti, avendo saputo del suo arrivo, erano venuti già quel giorno. Anna passò tutta la mattina con Dolly e con i bambini. Mandò soltanto un biglietto al fratello dicendogli di venire assolutamente a pranzo a casa. «Vieni, Dio è misericordioso», scrisse. Oblonsky pranzò a casa. La conversazione fu generica e la moglie parlò con lui dandogli del tu, cosa che prima non accadeva. Nei rapporti fra moglie e marito rimaneva sempre la medesima estraneità, ma ormai non si parlava già più di separazione e Stepan Arkadyč vedeva la possibilità di una spiegazione e di una riconciliazione. Subito dopo il pranzo venne Kitty. Essa conosceva Anna Arkadievna, ma molto poco. E ora si era recata dalla sorella non senza paura di come l'avrebbe accolta quella dama del gran mondo di Pietroburgo che tutti lo davano tanto. Ad Anna Arkadievna però Kitty piacque e lei lo vide subito. Anna evidentemente ammirava la sua bellezza e la sua giovinezza e Kitty non fece in tempo a rassicurarsi che già si sentiva non solo sotto la sua influenza ma innamorata di lei, come accade alle ragazze di innamorarsi delle signore sposate e più anziane. Anna non sembrava una dama di mondo o la madre di un bambino di 8 anni, sembrava piuttosto una ragazza di 20 anni, per l'agilità dei suoi movimenti, la freschezza e la vivacità che erano impresse sul suo volto e sgorgavano nel sorriso, nello sguardo. Solo negli occhi c'era un'espressione seria e a volte triste che colpì e attrasse Kitty. Kitty sentiva che Anna era assolutamente semplice e non nascondeva nulla, ma che aveva in sé un altro mondo, più elevato, di interessi inaccessibili a lei, complessi e poetici. Dopo il pranzo, quando Dolly si ritirò nella sua camera, Anna si alzò in fretta e si avvicinò al fratello che aveva acceso il sigaro. «Stiva», gli disse ammiccando allegramente, facendogli il segno della croce e indicando la porta con gli occhi. «Vai! E che Dio ti aiuti!» Egli capì, gettò via il sigaro e scomparve dietro la porta. «Quando ci sarà un ballo, dunque?» si rivolse essa a Kitty. «La settimana prossima, e sarà un ballo magnifico, uno di quei balli a cui ci si diverte sempre.» «Esistono balli dove ci si diverte sempre», disse Anna con affettuosa ironia. «È strano, ma esistono. Dai Bobrischev ci si diverte sempre, dai Nikitin anche, mentre dai Metzkov ci si annoia sempre. Non l'avete mai notato?» «No, anima mia, per me ormai non ci sono balli dove mi diverta», disse Anna. E Kitty vide nei suoi occhi quel mondo particolare che non le era accessibile. «Per me ce ne sono dove faccio meno fatica e mi annoio di meno.» «Come può essere che voi vi annoiate a un ballo?» «Perché mai io non dovrei annoiarmi a un ballo?» domandò Anna. Kitty notò che Anna sapeva quale sarebbe stata la risposta. «Perché siete sempre la migliore di tutte?» Anna sapeva arrossire, arrossì e disse: «In primo luogo non lo sono mai, in secondo luogo, anche se fosse così, che me ne farei?» «Verrete a questo ballo?» domandò Kitty. «Io so perché voi mi invitate al ballo. Da questo ballo vi attendete molto e vorreste che tutti fossero presenti, tutti partecipassero.» «Come lo sapete?» «Eh sì.» «Ah, com'è bella la vostra età», continuò Anna. «Ricordo e conosco quella nebbia azzurra, simile a quella che c'è sulle montagne in Svizzera. Quella nebbia che ricopre tutto nell'età beata in cui sta appena terminando l'infanzia. E da quell'immenso cerchio, felice, allegro, il cammino si fa sempre più stretto. Ed è allegro e doloroso insieme entrare in questa galleria, benché essa sembri luminosa e magnifica. Chi non è passato attraverso questo?» Kitty sorrideva in silenzio. «Ma come ci è passata lei? Come desidererei conoscere tutta la sua storia?» pensò Kitty, ricordandosi dell'aspetto per nulla poetico di Alexei Alexandrovich, il marito di lei. «Io so qualcosa, Stiva mi ha detto, e mi congratulo con voi. Lui mi piace molto», continuò Anna. «Ho incontrato Vronsky alla stazione.» «Ah, era là?» domandò Kitty arrossendo. «Ma che cosa vi ha detto Stiva?» Stiva mi ha raccontato tutto. Io sono stata molto contenta. Ieri ho viaggiato con la madre di Vronsky e la madre non ha smesso un momento di parlarmi di lui. È il suo Beniamino. So come siano parziali le madri, ma che cosa vi ha raccontato la madre? Ah, molte cose. Per esempio mi ha raccontato che lui voleva dare tutto il patrimonio al fratello, che già da bambino ha fatto qualcosa di eccezionale. Ha salvato una donna che annegava. Insomma, un eroe. Per il tè dei grandi, Dolly uscì dalla sua camera. Stepan Arkadyc non si faceva ancora vedere. Doveva essere uscito dalla camera della moglie passando per il retro. «Ho paura che di sopra avrai freddo», osservò Dolly rivolgendosi ad Anna. «Vorrei spostarti in basso e così saremo più vicine». «Oh, per favore, non preoccupatevi per me», rispose Anna, scrutando il viso di Dolly e cercando di capire se vi fosse stata o no riconciliazione. «Qui avrai troppa luce», rispose la cognata. «Ti dico che io dormo dappertutto e sempre come un ghiro». «Che cosa c'è?» domandò Stepan Arkadyc, uscendo dallo studio e rivolgendosi alla moglie. Dal suo tono sia Kitty sia Anna capirono che la riconciliazione era avvenuta. «Voglio spostare Anna al piano di sotto, ma bisogna appendere le tendine. Nessuno lo sa fare. Bisogna che lo faccia io», rispose Dolly rivolgendosi a lui. «Dio sa se si sono riconciliati del tutto», pensò Anna sentendo il tono di lei, freddo e calmo. «Ah, basta, Dolly, non crear sempre difficoltà», disse il marito. «Se vuoi faccio io tutto». «Sì, devono essersi riconciliati», pensò Anna. «So bene come farai tutto», rispose Dolly. Dirai a Matvei di fare quel che non si può fare e poi te ne andrai e lui imbroglierà tutto. E l'abituale sorriso ironico corrugò le estremità delle labbra di Dolly mentre diceva questo. Piena riconciliazione, piena, piena, grazie a Dio, pensò Anna, e rallegrandosi del fatto d'esserne stata la causa, si avvicinò a Dolly e la baciò. Per tutta la sera, come sempre, Dolly fu leggermente ironica verso il marito e Stepan Arkadich allegro e contento, ma non tanto da mostrare d'aver dimenticato la propria colpa dopo il perdono. Verso le 9:30, la conversazione serale della famiglia Oblonsky davanti alla tavola del tè, particolarmente lieta e gradevole, fu turbata da un avvenimento apparentemente assai semplice. Eppure questo semplice avvenimento in qualche modo parve a tutti strano. Mentre discorrevano di comuni conoscenti di Pietroburgo, Anna si era alzata con un gesto rapido. «Ce l'ho nel mio album», aveva detto. «Sì, e a proposito vi mostro anche il mio Seriosa», aveva aggiunto con un orgoglioso sorriso materno. Verso le 9, l'ora in cui di solito si congedava dal figlio e sovente lo metteva a letto lei stessa prima di andare a un ballo, si sentiva triste per il fatto di trovarsi così lontana da lui. Di qualunque cosa si parlasse non faceva che ritornare con il pensiero al suo ricciuto Seriosa. Così ora le era venuta voglia di guardare la sua fotografia e di parlare di lui. Approfittando del primo pretesto si era alzata e con il suo passo leggero e deciso era andata a prendere l'album. La scala che portava di sopra nella sua camera dava sul pianerottolo della grande scalinata d'ingresso riscaldata. Mentre usciva dal salotto si sentì in anticamera il campanello. «Chi può essere?» disse Dolly. «Per venire a prendermi è presto e per una nuova visita è tardi», osservò Kitty. «Di sicuro sono carte mandate dall'ufficio», aggiunse Stepan Arkadich. Nel momento in cui Anna passava vicino alla scalinata, il domestico corse di sopra per annunciare il visitatore, mentre il visitatore stava in piedi accanto alla lampada. Guardando giù, Anna riconobbe subito Vronsky e a un tratto nel suo cuore si agitò una strana sensazione di piacere e nello stesso tempo di paura di qualcosa. Egli era in piedi, senza essersi tolto il paltò, e stava tirando fuori di tasca qualcosa. Quando essa fu a metà scala, alzò gli occhi, la scorse e nell'espressione del suo viso nacque qualcosa di vergognoso e di spaventato. Chinato leggermente il capo, essa passò avanti e subito dopo di lei si udì la voce rumorosa di Stepan Arkadich che invitava lui a entrare e la voce sommessa, dolce e tranquilla di Vronsky che ricusava. Quando Anna ritornò con l'album, egli non c'era già più e Stepan Arkadich raccontò che era passato di lì per informarsi a proposito di un pranzo che loro davano l'indomani per una celebrità di passaggio. «E non ha voluto entrare a nessun costo. È un uomo un po' strano», soggiunse Stepan Arkadich. Kitty arrossì. Pensava di aver capito perché lui fosse venuto e non fosse entrato. «È stato da noi», pensò, «e non mi ha trovata e ha pensato che fossi qui. Ma non è entrato perché ha pensato che fosse troppo tardi e c'era qui Anna». Tutti si scambiarono un'occhiata senza dir nulla e si misero a guardare l'album di Anna. Non c'era nulla di strano o eccezionale nel fatto che una persona passasse da un amico alle 9:30 per informarsi sui dettagli di un pranzo in progetto e non entrasse. Eppure ciò parve strano a tutti. E più di tutti fu Anna ad avere l'impressione che fosse strano e non fosse bene. Il ballo era appena cominciato quando Kitty entrò con la madre nella grande scalinata inondata di luce e cosparsa di fiori e di domestici incipriati in caffettano rosso. Dalle sale giungeva il brusio di un movimento uniforme come quello di un alveare. E mentre loro si aggiustavano le acconciature e gli abiti davanti allo specchio del pianerottolo, si udirono dalla sala i suoni cauti e precisi dei violini dell'orchestra che cominciava il primo valzer. Kitty vedeva Anna ogni giorno, era innamorata di lei e non riusciva a immaginarsela che in lilla. Ma ora, vedendola in nero, sentì che non ne aveva compreso tutto il fascino. Ora lei le apparve completamente nuova e inaspettata, e capì ora che Anna non poteva essere in lilla e che il suo fascino stava proprio nel fatto che essa non si lasciava dominare dalla sua toilette, che la toilette non poteva mai prendere risalto a spese di lei. Neppure l'abito nero con le lussuose trine risaltava su di lei. Era solamente una cornice e risaltava lei sola, semplice, naturale, elegante e nel contempo gaia e animata. Era in piedi, come sempre tenendosi straordinariamente ritta, e quando Kitty si avvicinò al gruppo stava parlando con il padrone di casa volgendo leggermente la testa verso di lui e subito rivolgendosi a Kitty con un fine sorriso di protezione. Dopo aver esaminato la sua toilette con un furtivo sguardo femminile, fece un movimento con la testa appena percettibile, ma comprensibile per Kitty in segno d'approvazione. «Anche in sala voi entrate danzando», aggiunse. «Un giro di valzer, Anna Arkadievna?» «Io non ballo quando si può non ballare», disse lei. «Ma adesso non è possibile», rispose Korsunsky. In quel momento si avvicinò Vronsky. «Bene, se oggi non si può non ballare, allora andiamo», disse lei senza notare l'inchino di Vronsky e sollevando in modo rapido la mano sulla spalla di Korsunsky. «Perché è scontenta di lui?» pensò Kitty, avendo notato che Anna intenzionalmente non aveva risposto all'inchino di Vronsky. Vronsky si avvicinò a Kitty ricordandole la prima quadriglia e rammaricandosi di non aver avuto il piacere di vederla in tutto quel tempo. Mentre lo ascoltava, Kitty guardava con ammirazione Anna che ballava. Si aspettava che lui la invitasse a un valzer, ma egli non la invitò e lei lo guardò in modo stupito. Egli arrossì e si affrettò a invitarla al valzer, ma aveva appena abbracciata la vita sottile e fatto il primo passo che a un tratto la musica si fermò. Kitty guardò il viso di lui, che era a così breve distanza dal suo, e per molto tempo, in seguito, anche dopo molti anni, quello sguardo pieno d'amore con cui allora lei lo guardò e a cui egli non rispose, ferì il suo cuore di dolorosa vergogna. «Pardon, pardon! Un valzer, un valzer!» gridò dall'altra parte della sala Korsunsky e, afferrata al volo la prima signorina che gli capitò, si rimise a ballare. Vronsky fece qualche giro di valzer con Kitty. Dopo il valzer, Kitty si avvicinò alla madre ed aveva fatto appena in tempo a scambiare qualche parola con Nordston che già Vronsky venne a cercarla per la prima quadriglia. Durante la quadriglia non fu detto nulla di significativo. Si svolse una conversazione saltellante, ora sui Korsunsky, marito e moglie, che egli descrisse in modo assai divertente come cari bambinoni quarantenni, ora sul futuro teatro pubblico. Solo una volta il discorso la toccò sul vivo, quando lui domandò di Levin e subito aggiunse che gli era piaciuto molto. Ma Kitty non si aspettava di più dalla quadriglia. Attendeva invece con cuore trepidante la mazurka. Le sembrava che tutto dovesse decidersi nella mazurka. Il fatto che durante la quadriglia egli non l'avesse invitata per la mazurka non la preoccupava. Era sicura che avrebbe ballato la mazurka con lui, come nei balli precedenti, e rifiutò la mazurka a 5 cavalieri dicendo che era impegnata. The rising sun. It's been the room of many poor girls. Feel God I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. on a drum. Mothers, tell children, don't do as I have done. 'Cause when your life in sin and misery, how's the rising sun? There is a house in New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many poor girls. And you got out. Tutto il ballo, sino all'ultima quadriglia, fu per Kitty un sogno incantato di colori gioiosi, di suoni e di movimenti. Non ballava solo quando si sentiva troppo stanca e aveva bisogno di riposo. Ma ballando l'ultima quadriglia con uno dei noiosi giovanotti ai quali non si poteva dir di no, le capitò di essere vis-à-vis con Vronsky e Anna. Non aveva più incontrato Anna da quando era arrivata e ancora una volta la vide ora completamente nuova e inaspettata. Vide in lei i segni che ben conosceva dell'eccitazione causata dal successo. Vide che Anna era ebbra del vino dell'esaltazione che lei stessa aveva suscitato. Conosceva questa sensazione e conosceva i suoi sintomi e li vide in Anna. Vide il fulgore tremante e balenante negli occhi e il sorriso di felicità e di eccitazione che involontariamente le piegava le labbra e la grazia misurata, la sicurezza e la leggerezza dei movimenti. Chi? Si domandò. Tutti oppure uno? No, non è l'ammirazione della folla che l'ha inebriata, ma l'entusiasmo di uno solo. Ma chi è? Possibile che sia lui? Ogni volta che lui parlava con Anna, negli occhi di lei si accendeva un lampo di gioia e un sorriso di felicità piegava le sue labbra vermiglie. Era come se facesse uno sforzo su di sé per non mostrare al di fuori questi segni di gioia, ma essi emergevano da soli sul suo viso. Ma lui che fa? Kitty lo guardò e si spaventò. Ciò che a Kitty già appariva così chiaramente nello specchio della faccia di Anna, essa lo vide anche in lui. Tutto il ballo, il mondo intero, tutto si coprì di nebbia nell'anima di Kitty. Soltanto la severa scuola di educazione per cui era passata la sosteneva ora e la obbligava a fare ciò che da lei si esigeva, ossia ballare, rispondere alle domande, parlare e anche sorridere. Ma prima che cominciasse la mazzurca, quando già avevano cominciato a spostare le sedie e alcune coppie si erano avviate dalle piccole sale nella grande, su Kitty si abbatté un momento di disperazione e di terrore. Aveva respinto 5 cavalieri e adesso non ballava la mazzurca. Non c'era nemmeno speranza che la invitassero proprio perché aveva troppo successo in società e a nessuno poteva venire in mente che non l'avessero ancora invitata. Bisognava dire alla madre che non si sentiva bene e andare a casa, ma per fare questo le mancava la forza. Si sentiva annientata. Si rifugiò in un piccolo salotto e si abbandonò su una poltrona. L'aerea gonna dell'abito si sollevò come una nuvola intorno alla sua vita sottile. Una mano nuda, magra, delicata, di ragazza, abbandonata e inerme, affondava nelle pieghe della rosea gonna. Nell'altra teneva il ventaglio e con movimenti veloci e corti faceva vento al viso accaldato. Ma nonostante questo aspetto di farfalla, appena posatasi su uno stelo d'erba e pronta a librarsi e ad aprire le ali iridate, una disperazione terribile le serrava il cuore. «Oh, forse mi sbaglio! Forse non c'è stato niente di questo!» E si rimise a ricordare tutto quel che aveva visto. «Kitty, che cosa succede?» disse la contessa Nordston, avvicinandosi senza far rumore sul tappeto. «Non capisco!» A Kitty tremò il labbro inferiore. Si alzò in fretta. «Kitty, non balli la mazurka?» «No, no», disse Kitty con voce tremante di lacrime. «Lui l'ha invitata alla mazurka davanti a me», disse la Nordston, sapendo che Kitty avrebbe capito chi era lui e chi lei. «Lei ha detto, non ballate con la principessina Scerbakaya?» «Ah, Per me fa lo stesso, rispose Kitty. Nessuno fuorché lei capiva la sua situazione. Nessuno sapeva che ieri lei aveva respinto un uomo che forse amava e l'aveva respinto perché aveva creduto ad un altro. Vronsky e Anna stavano quasi di fronte a lei. Lei li vedeva con i suoi occhi presbiti, li vedeva da vicino quando si incontrarono nelle coppie, e quanto più li vedeva, tanto più si convinceva che si era compiuta la sua disgrazia. Vedeva che essi si sentivano soli in quella sala affollata, e sulla faccia di Vronsky, sempre così ferma e indipendente, vedeva quell'espressione di smarrimento e di sottomissione che già l'aveva colpita e che assomigliava all'espressione di un cane intelligente quando si sente in colpa. Elsa Galvato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @chiocciolarai.it